forse sapete già che diciamo, gli archivi pubblici e aperti agli studiosi che conservano documentazione prodotta da uffici statali del Regno d'Italia prima e poi della Repubblica Italiana sono in sostanza gli archivi di Stato e l'archivio centrale dello Stato. Questi sono gli archivi più facilmente fruibili da parte del pubblico, da parte degli studiosi. Non occorrono autorizzazioni specifiche per accedermi, basta la carta d'identità, indicare un progetto di ricerca o un vago tema di ricerca anche, poi l'accesso viene rilasciato, diciamo, viene rinnovato di anno in anno. La situazione però degli archivi di Stato che ricevono i versamenti degli uffici periferici dello Stato italiano e dell'archivio centrale che invece riceve i versamenti degli uffici centrali dello Stato italiano, ma peraltro non di tutti, ecco, la situazione di questi archivi però non è una situazione particolarmente felice e questo soprattutto nell'ultimo decennio e in particolare negli ultimi 4-5 anni. Non è particolarmente felice essenzialmente per ragioni di carenza di personale e per ragioni di mancanza di spazio fisico. Ossia all'Archivio Centrale dello Stato c'è ancora spazio disponibile per i versamenti, ma i numerosi archivi di Stato e soprattutto quelli che hanno i fondi più antichi, i fondi degli antichi regimi, perché gli archivi di Stato non hanno solo carte recenti, a differenza dell'Archivio Centrale dello Stato, ma hanno anche carte degli stati pre-unitari. Allora, soprattutto in questi archivi che hanno i fondi più ricchi, carte degli antichi stati italiani, la situazione, diciamo, di possibilità di spazi, di utilizzare spazi è molto, cioè non voglio dire drammatica, però insomma molto difficile. E questo è un primo impedimento molto concreto al ricevimento di versamenti da parte degli uffici dell'amministrazione attiva. I versamenti sono questi trasferimenti, adesso è andata via. I versamenti sono questi trasferimenti di responsabilità di serie archivistiche dalla responsabilità appunto dell'amministrazione attiva, degli uffici statali, amministrativi e giudiziali, all'amministrazione archivistica, che è sempre lo Stato, come gli uffici statali, è sempre stato, ma dipende dal Ministero dei Beni Culturali, come sapete. Poi, dicevo, c'è un problema di personale. Soprattutto ci sono stati, il problema è che ci sono stati diversi diciamo, progressioni di carriera che hanno fatto sì che il personale che prima era adibito a portare i faldoni, cioè le buste, le cartelle agli studiosi. Ha avuto degli avanzamenti di carriera, per cui è diventato personale amministrativo e spesso non fa più questo tipo di lavori. Altra parte del personale è andata in pensione, non è stata sostituita e anche tra gli archivisti di Stato, diciamo, adesso c'è stato un concorso, però per soli 12-15 posti in tutta Italia ed erano più di 10 anni che non si faceva un concorso. Allora, questo è un primo obiettivo limite perché se non c'è spazio e non c'è personale anche per gestire questi versamenti, inevitabilmente i versamenti si fanno più rari, più sporadici, cioè non c'è più quella continuità nei versamenti che invece, diciamo, era più riscontrabile negli anni 60 e in parte negli anni 70. Poi c'è un'altra questione anche connessa proprio ai temi della nostra ricerca, cioè alle fonti più recenti, ai documenti più recenti del Novecento e a documenti di uffici che insomma si sono occupati di ordine pubblico e di repressione della criminalità. L'amministrazione degli archivi di Stato fino al 1975 dipendeva dal Ministero dell'Interno. Questo, poiché gli archivisti di Stato erano inseriti nella stessa amministrazione, cioè Ministero dell'Interno, così come il personale dell'amministrazione civile, il personale delle forze di polizia, dipendevano tutti dallo stesso ministero, polizia intendo dire polizia di Stato. Questo fatto, diciamo, favoriva un rapporto, diciamo, molto più dialogante e più semplice rispetto alla situazione che invece si è verificata dopo il 1975. Inoltre, il Ministero dell'Interno storicamente ha sempre avuto, diciamo questo soprattutto nella prima metà del Novecento, più che nella seconda, anche delle funzioni, come dire, un po' di, dal punto di vista burocratico, non, di coordinamento non è corretto, ma di osservazione attiva e di una sorta di superiorità burocratica rispetto ad altri ministeri. Prendete con beneficio di inventario quello che vi dico, però il Ministero dell'Interno, insomma, fino agli anni 50 si occupava anche di più materie rispetto, aveva più funzioni rispetto a quelle che ha attualmente. Ricordiamoci che, per esempio, dipendeva dal Ministero dell'Interno la direzione della sanità pubblica, il Ministero della Sanità sorge alla fine degli anni 50. Quindi ci sono tutti questi elementi da tenere in considerazione e che purtroppo hanno portato a, diciamo, un esito non favorevole su, diciamo, il processo che sarebbe disposto dalle norme, che è previsto dalle norme, di regolare il versamento dei fondi archivistici dalle amministrazioni attive, cioè dagli uffici statali, centrali e periferici, agli archivi di Stato e all'archivio centrale dello Stato. Questi versamenti, dice la legge, dovrebbero avvenire 40 anni in media, diciamo, la legge prescrive 40 anni dopo l'esaurimento degli affari. Cioè, prima i documenti stanno negli archivi di deposito, negli archivi correnti dei ministeri e poi vengono versati dopo 40 anni dall'esaurimento degli affari a cui questi documenti si riferiscono nei rispettivi archivi di Stato e per quanto riguarda gli uffici centrali, amministrativi e giudiziari dello Stato italiano nell'archivio centrale dello Stato. Però le norme stesse, che oggi sono rappresentate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, dicono anche che sono possibili dei versamenti prima di questa scadenza temporale, cioè prima di questi 40 anni dall'esaurimento degli affari. E grazie, diciamo, a questo varco offerto dalle norme, oggi dal codice dei beni culturali, ma in passato già dalla legge sugli archivi del 39. No, anzi meglio dire, dal regolamento del 1911 e poi dalla legge sugli archivi del 1963. Quindi, grazie a questo varco normativo, l'archivio centrale dello Stato, che è aperto al pubblico alla metà degli anni 60, l'archivio centrale dello Stato ha potuto ricevere in quel periodo, cioè in pratica a soli 20 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, 45-65, diciamo più o meno questo arco temporale, delle serie archivistiche molto recenti, cioè per l'epoca erano molto recenti. Già diversi archivi furono recuperati alla fine della guerra, archivi della Repubblica Sociale Italiana e diciamo furono in quel momento trasmessi ai rispettivi ministeri, ma nel momento in cui effettivamente vennero costituiti depositi dell'archivio centrale dello Stato, quelli all'Eur, attualmente l'archivio centrale dello Stato si trova all'Eur a Roma, Questi stessi fondi dell'RSI e altri fondi propriamente politici, i cosiddetti archivi fascisti, la segreteria particolare del Duce, ad esempio, vennero acquisiti dall'archivio centrale dello Stato. Alla fine degli anni 60, grazie a un rapporto diretto tra l'allora soprintendente all'archivio centrale dello Stato, Leopoldo Sandri, la direzione generale della pubblica sicurezza e il direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, fu possibile, ma non attraverso le normali procedure, ma attraverso proprio un rapporto diretto, fu possibile recuperare le carte del casellario politico centrale fino al 1945, oggi consultabili nell'archivio centrale dello Stato. Fu possibile sempre nel 69 anche recuperare le carte della polizia politica del regime fascista, oggi anch'esse consultabili. Quindi badate bene che erano documenti che arrivavano fino al 45 ed eravamo nel 69, cioè a soli 25 anni dal periodo, diciamo, a cui facevano riferimento queste carte. Queste carte furono rese, diciamo, tra appunto la metà degli anni 60 e la metà degli anni 70. Furono rese disponibili alla ricerca storica, alla consultazione degli studiosi. Quindi tempi piuttosto molto, diciamo, brevi rispetto alla data a cui questi documenti facevano riferimento. Fu così possibile già a metà anni 70 con due ricerche sul periodo fascista e fino agli eventi della Seconda Guerra Mondiale, in parte. Allora, questo è stato possibile proprio perché le norme prevedevano, nel caso di pericolo, di smarrimento, di dispersione o di cattiva conservazione, il versamento anticipato dei fondi dell'amministrazione attiva, dagli uffici statali all'archivio centrale dello Stato, o nel caso di questure e prefetture, ai rispettivi archivi di Stato. Perché gli studiosi hanno potuto accedere a questi archivi? Già all'inizio degli anni 70. Come mai? Allora, anche qui, prima la legge sugli archivi del 63 e oggi il codice dei beni culturali dicono in sostanza che i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna e estera dello Stato diventano consultabili 50 anni dopo la loro data. Però questi fondi in realtà furono in qualche modo consultabili 25 anni, 20, 25, 30 anni dopo la loro data. Questo è stato reso possibile da un altro articolo della legge sugli archivi del 63, ma era già presente nella precedente normativa del Regno d'Italia, che rendeva possibile un'autorizzazione alla consultazione anticipata dei documenti. Autorizzazione alla consultazione anticipata dei documenti che in quel periodo veniva data in sostanza dagli archivisti di Stato, no, meglio dire, veniva rilasciata dal Ministero dell'Interno, ma in quell'epoca l'amministrazione archivistica dipendeva dal Ministero dell'Interno. E soprattutto il fatto interessante è che questo carattere di riservatezza veniva rilevato dagli archivisti di Stato stessi, dagli stessi archivisti di Stato all'interno degli istituti di conservazione. Quindi in sostanza è vero che le norme dicono i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna e estera dello Stato non sono consultabili se non 50 anni dopo la loro data. Però era possibile ed è tuttora possibile attraverso un'autorizzazione che è personale, cioè rivolta, rilasciata allo studioso che ne fa richiesta, consultare le carte anche prima del decorrere di questo arco temporale. Quindi un'autorizzazione alla consultazione anticipata, in sostanza. Ora però, tutto questo ancora, diciamo, riguarda poco i documenti che possono contenere notizie, informazioni, suggerimenti utili al tema della strategia dell'attenzione. La strategia dell'attenzione è, diciamo, si riferisce a un periodo che va, io non sono uno storico, ma mi sembra, insomma, potrei sbagliarmi su questo, ma dall'inizio degli anni 60 fino al 73-74. Quindi si tratta di diciamo, un periodo storico molto più recente rispetto alle carte e agli episodi di cui vi sto raccontando ora. Però questi due episodi io ve li riferisco, questa situazione ve la riferisco perché bisogna anche avere presente come in realtà la situazione in qualche modo sia peggiorata rispetto alla metà degli anni 70. Dal punto di vista dell'effettiva fruibilità delle fonti, la situazione non si può dire che sia migliorata, tutt'altro, perché in sostanza in rapporto a quel periodo sono meno numerosi gli archivi presenti negli archivi di Stato, nell'archivio centrale dello Stato, che risalgano a 20 anni, a 30 anni da oggi, dal momento attuale. E soprattutto sono poco frequenti gli archivi in qualche modo nati come archivi riservati, quindi archivi della polizia o archivi di uffici che svolgevano attività di intelligence. Quindi, mentre è stato possibile accedere dalla metà degli anni 70 e anche prima a fondi, a serie del regime fascista prodotti da uffici che svolgevano effettivamente attività di intelligence in qualche modo, allora non si chiamava così, ma diciamo attività di polizia politica, per esempio appunto la divisione della polizia politica del Ministero dell'Interno. Non altrettanto, diciamo, si è potuto verificare in un periodo successivo, relativamente invece alle carte risalenti al periodo repubblicano, alla nostra storia repubblicana. Però questo fenomeno, cioè la scarsa presenza di archivi originariamente di carattere riservato, prodotti da uffici che svolgevano attività riservate, attività di informazione e sicurezza, relativi al periodo repubblicano, quindi dal 1946 in poi, se ci pensate, ha una sua spiegazione molto logica. In sostanza è dovuto alla rottura istituzionale che è avvenuta alla fine della guerra, cioè lo Stato italiano, almeno nominalmente, si proclamava la Repubblica Italiana come qualcosa di molto diverso rispetto al regime fascista. Quindi la frattura dovuta alla guerra, alle vicende tragiche della guerra, alla guerra partigiana, alla guerra civile, la frattura istituzionale, il passaggio dal Regno d'Italia alla Repubblica Italiana, il superamento, insomma, in sostanza del regime fascista, il passaggio a uno Stato democratico, ha fatto sì che queste carte del regime fascista fossero viste come qualcosa di diverso, e non, in cui era diciamo, visibile una cesura rispetto alle carte prodotte dagli uffici dell'Italia repubblicana. Questa cesura invece non è rintracciabile nelle carte prodotte lungo il corso dagli uffici statali, lungo il corso della nostra storia repubblicana. Tanto per fare un esempio, le carte dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno. Questo ufficio affari riservati in sostanza era un servizio che svolgeva attività di intelligence, anche se non vi erano delle norme che regolassero questo servizio in tal senso, perché non era previsto un servizio di sicurezza civile dal punto di vista normativo, questo fino alla legge del 1977 sul riordinamento dei servizi di sicurezza. Però nei fatti questo ufficio affari riservati dal 1949 fino al 1970, e poi cambierà nome, svolge questo tipo di attività. Ora, buona parte dei documenti dell'ufficio affari riservati, che ripeto, partono col 1948-49, sono ancora conservati, diciamo, gestiti sotto la responsabilità dell'attuale Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, che è l'organo che attualmente ha ereditato, diciamo, questi archivi, gli archivi dell'Ufficio Affari Riservati, poi UCIGOS. Solo una parte di queste carte sono state versate all'Archivio Centrale dello Stato, così come non, in sostanza non sono ancora consultabili le carte del Servizio Informazioni Militari presso l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Per quanto diciamo, queste carte siano enucleabili e distinguibili rispetto ai servizi segreti militari che hanno preso il posto del vecchio SIM, Servizio Informativo Militare, che appunto si trasforma poi in SIFAR nel 1949. Allora, per quanto siano archivisticamente distinguibili, in buona misura, queste carte ancora, pur in buona parte versate all'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, non sono consultabili. E un'altra parte è ancora trattenuta dal SISMI e oggi AISE. Allora, questo succede perché evidentemente gli attuali uffici che svolgono queste funzioni latamente di intelligence, di informazione e sicurezza, ritengono che buona parte di queste carte siano ancora utili al loro servizio oppure diciamo, le considerano, anche se questo non viene detto, ma le considerano come, in qualche modo, meritevoli di riservo, meritevoli di non essere versate negli archivi pubblici, negli archivi di Stato. E questo dipende anche dal fatto che non c'è stata una frattura istituzionale in tutto questo sessantennio, no? Che parte che inizia con la fine della Seconda Guerra Mondiale e con la nascita della Repubblica. Per quanto sia notevolmente cambiata la situazione geopolitica in cui si inserisce il nostro paese, questo a partire dal 1989-90 con la caduta dei regimi del Patto di Varsavia, ma nonostante questo, questi documenti in buona parte sono ancora o trattenuti dagli attuali servizi oppure in parte sequestrati dall'autorità giudiziaria perché sono entrati a far parte di processi appunto relativi a gravi stragi verificatisi nel nostro paese a partire da 1969. Ma allora, adesso andiamo un po' al punto e cerchiamo di capire quali sono diciamo, fondi o le carte o i documenti che è possibile utilmente con buon frutto consultare da parte degli studiosi relativi a questo tema, relativi al tema di questo laboratorio. Ma io direi che, insomma, a mio parere, ma non solo mio, le fonti più direttamente consultabili che ci possono dare un quadro in qualche modo unitario anche di questi fenomeni, degli eventi di strage, del terrorismo, di casi di malaffare politico che però anche ha coinciso con parziali tentativi, diciamo, di revisione dell'assetto istituzionale, revisione illegittima dell'assetto istituzionale del nostro paese, e mi riferisco al fenomeno della P2 o appunto ai casi di vasta corruzione emergenti dal caso Sindona. Allora, buona parte di questi eventi in qualche modo sono più visibili, più fruibili, in modo un po' più unitario attraverso le pubblicazioni, quindi non documenti, ma pubblicazioni, e però anche documenti archivistici delle commissioni parlamentari d'inchiesta. Allora, purtroppo le pubblicazioni delle commissioni parlamentari d'inchiesta, che per alcune commissioni si tratta di, ecco, nel caso di alcune commissioni si tratta di decine e decine di tomi, queste pubblicazioni non sono presenti in tutte le biblioteche pubbliche, o almeno nelle più importanti biblioteche pubbliche italiane, più importanti. Dovrebbero essere presenti, secondo me, almeno nei capoluoghi di regione, nelle rispettive biblioteche comunali o nelle biblioteche nazionali. Io non so, forse non sono riuscito a fare un'indagine accurata, però non c'è qui a Milano un luogo dove sono conservati in un modo continuo e completo tutti gli atti pubblicati, cioè in volumi appunto, di queste commissioni parlamentari d'inchiesta. Per poterli consultare in un modo pressoché completo bisogna andare a Roma, presso le biblioteche del Senato e della Camera. Vediamo un po', allora, la documentazione pubblicata o non pubblicata relativa a alcune commissioni parlamentari d'inchiesta che ci interessano soprattutto ai nostri figli. Ma direi, allora, intanto una piccola premessa. Gli archivi, la documentazione prodotta dalle commissioni parlamentari d'inchiesta, se sono commissioni monocamerali, ovviamente si trovano nell'archivio del rispettivo ramo del Parlamento. Se sono commissioni bicamerali d'inchiesta, e qui nel nostro caso si tratta soprattutto di commissioni bicamerali d'inchiesta, i relativi atti si trovano nell'archivio storico del ramo del Parlamento di cui fu presidente, cioè a cui appartenne colui che presiedette la rispettiva commissione parlamentare d'inchiesta. È chiaro, no? Quindi, per esempio, l'importantissima documentazione relativa, cioè prodotta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, il terrorismo in Italia, dell'ottava legislatura, istituita nel 1979 e ha concluso i lavori nell'83, le pubblicazioni e le carte prodotte da questa commissione bicamerale d'inchiesta si trovano presso l'archivio storico del Senato. Per questa inchiesta fu presieduta da un senatore. Di questa inchiesta sono stati pubblicati ben 102 volumi. Ora, questi 102 volumi, ovviamente, non solo in minima parte comprendono le relazioni di maggioranza e di minoranza e i verbali, i resoconti stenografici dell'audizione. La maggior parte di questi 102 volumi, invece, sono riproduzioni di documenti. Quindi sono documenti riprodotti in volume, non sono documenti originali, ma sono comunque, diciamo, una fonte che non è archivistica, perché non sono documenti originali, ma si avvicina in qualche modo a quello che può essere considerato una fonte archivistica. Ovviamente questa documentazione va letta in rapporto con i lavori della Commissione, e quindi con le riunioni della commissione, con il calendario delle riunioni della commissione e con come dire, la scansione delle audizioni e delle testimonianze. Vi è un indice relativo ai primi 90 volumi e più recentemente l'archivio storico del Senato ha ricevuto anche i documenti che non erano stati pubblicati in origine, cioè che non erano stati pubblicati in questi 103, 102 volumi, 102 tomi. Quindi, oltre ai documenti pubblicati in questi volumi, è possibile consultare presso l'archivio storico del Senato 22 cartelle di cosiddetti atti e 12 buste che raccolgono le bobine magnetiche dell'audizione. L'accesso all'archivio storico del Senato non è così immediato come per l'archivio centrale dello Stato, come per gli archivi di Stato, perché bisogna farsi preventivamente rilasciare un'autorizzazione, che può essere però mandata via fax, in cui si specificano quali sono i temi della propria ricerca e quali sono, diciamo, in via generale, i fondi o le serie che potrebbero essere o che sono oggetto di richiesta di consultazione. Sempre all'archivio storico del Senato sono conservati poi i documenti prodotti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, anche questa bicamerale, sul terrorismo in Italia e le cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. Questa fu una commissione d'inchiesta, terrorismo in Italia e cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, una commissione d'inchiesta che partì come commissione monocamerale alla Camera dei Deputati, e però diciamo alla fine della nona legislatura. Questo fu istituito alla fine della legislatura, poi l'introduzione della legislatura nell'87, con l'elezione dell'87, portò poi alla reistituzione di una nuova commissione, questa volta bicamerale e presieduta da un senatore. È una commissione che ha prodotto tantissimo materiale e che però non ha prodotto una relazione conclusiva. Ha prodotto una proposta di relazione conclusiva redatta dall'ultimo presidente di questa commissione, che è stato Giovanni Pellegrino, e diversi contributi degli altri componenti della commissione bicamerale d'inchiesta. Allora, ripeto, questa commissione nasce al Camera. Però viene con la fine della legislatura subito poi restituita come bicamerale al Senato. Infatti alla Camera ci sono poche cartelle, quelle iniziali, ma tutto il materiale poi è stato trasferito, o la maggior parte del materiale, al Senato, dove poi ovviamente tra il 1988 e il 2001, nella primavera, nel febbraio del 2001, si concludono i lavori di questa commissione. Quindi è un arco temporale di 12-13 anni, no? Se non sbaglio, di 13 anni, che si è svolto, si è dipanato attraverso più legislature. Le prime due, presiedute da Libero Gualtieri, e le ultime due, cioè la 12ª e la 13ª, fino all'inizio del 2001, da Giovanni Pellegrino. Dicevo che non è stata prodotta una relazione di maggioranza, diversamente da quello che succedeva e che succede di solito, una proposta di relazione. E diciamo, in modo più esteso, queste conclusioni a cui è pervenuto il presidente Pellegrino sono anche, diciamo, state pubblicate in un libro edito da Einaudi che si intitola Segreto di Stato, la verità da Gladio al caso Moro. Dunque, il problema è che per i lavori di questa commissione non sono numerosi invece i volumi pubblicati. Mi sembra che siano 14, mi sembra. Ci sono i resoconti stenografici delle sedute, Le relazioni semestrali periodicamente trasmesse dal Presidente ai rispettivi uffici di presidenza della Camera e del Senato, e, gli indici degli atti, i resoconti delle riunioni, i contributi dei relatori, tra cui appunto questa proposta di relazione conclusiva. Però non ci sono i documenti, cioè non c'è una pubblicazione dei documenti, così come era stato fatto per la Commissione Moro. Peraltro ricordiamo che anche per la Commissione Moro la pubblicazione non è integrale, non è stata integrale come ho già detto prima. Però in questo caso non c'è stata una pubblicazione di documenti, cioè di documentazione allegata, no? La documentazione che diciamo, viene utilizzata per i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta. Questa Commissione parlamentare d'inchiesta in sostanza ha lavorato su 27 filoni diversi. Il merito di questa commissione è che ha cercato di unificare diciamo, la sua attività ispettiva e d'inchiesta, di unificarla in un quadro comune. Questo è un merito soprattutto dei lavori diciamo, condotti sotto la presidenza Pellegrino, rispetto ai precedenti lavori condotti sotto la presidenza Gualtieri nella decima e undicesima legislatura. Allora, la documentazione, diciamo, un po' relativa a questi 27 filoni d'inchiesta diversi, che comprendono ancora una volta, ad esempio, ulteriori e supplementi di indagine sul caso Moro, anche perché non dimentichiamoci che nel 1990 c'era stato il rinvenimento in via Montenevoso di una. Ulteriori carte in fotocopia relative alla gestione del sequestro. Questo fra parentesi. Allora, dicevo che la documentazione immensa prodotta dai lavori di questa commissione Terrorismo e Stragi non è stata pubblicata, è stata pubblicata sul web per un periodo. Fino a quest'estate erano riprodotte una parte dei documenti relativi al filone d'inchiesta Moro, però poi hanno deciso di toglierli dal web perché insomma, la giustificazione è stata che era solo una parte della documentazione e avrebbe do avuto bisogno di essere integrata con molti altri documenti che nel frattempo non erano stati diciamo, riprodotti, digitalizzati e riprodotti sul web. Quindi attualmente che io sappia, non è visibile sul web una riproduzione dei documenti, però sono riprodotti, sono riprodotti i volumi, in sostanza, i volumi pubblicati, questi 14 tomi dei lavori della Commissione, e per vedere invece i documenti bisogna andare ancora una volta presso l'Archivio Storico del Senato. Che conserva 1500 buste di atti, quindi 1500 è un numero molto elevato, appunto comprensivi cioè tra il periodo 1988 e 2001. Questi atti peraltro non sono tutti consultabili perché una parte è stata dichiarata segreta dalla commissione stessa e quindi diciamo occorre comunque consultare un indice presente in sala di studio, un indice generale dei fascicoli e da questo indice si evince anche quali sono i fascicoli consultabili e quali no. Ora, passando invece a importanti commissioni bicamerali presiedute da un deputato e quindi conservate i relativi atti sono conservati in linea di massima all'archivio storico della Camera. Io, diciamo, per queste mi riferirei soprattutto ai documenti della inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964, cioè questa inchiesta parlamentare istituita con una legge di 1969, e se non ricordo male, è quella famosa inchiesta parlamentare a cui fu opposto il segreto di Stato su una parte della documentazione che era stata raccolta nelle precedenti inchieste amministrative, cioè interne, condotte da generali dell'Arma dei Carabinieri nei confronti, diciamo, del cosiddetto Piano Solo e Golpe De Lorenzo. Cioè, c'era stata già un'indagine amministrativa condotta dall'esercito, l'Arma dei Carabinieri allora faceva parte dell'esercito, sapete che solo dal 2000 che l'Arma dei Carabinieri è una forza armata autonoma distinta dall'esercito. Allora c'era stata già un'indagine amministrativa, ma i documenti, diciamo, più scottanti, in realtà su questi documenti era stato posto il segreto di Stato dal governo. Opposto il segreto di Stato alla Commissione parlamentare d'inchiesta. Sono i famosi omissis del caso Sifar. Questi omissis, poi del caso Sifar, sono stati tolti nel 1990 dal governo Andreotti e quindi quei documenti che prima erano omissati sono stati poi visibili dalla Commissione, a questo punto dalla Commissione Stragi, in quel periodo era presieduta da Libero Gualtieri. E la Commissione ha deciso di pubblicarli. Quindi questi documenti in origine, diciamo, coperti da omissis, cioè coperti da segreto di Stato nel 69, attualmente sono consultabili perché sono documenti riprodotti, cioè intanto sono consultabili gli originali, poi sono consultabili più facilmente anche la riproduzione dei documenti in cinque volumi all'interno, appunto, delle pubblicazioni della decima legislatura della Commissione Stragi. Comunque diciamo che questi sono tra i pochi fondi delle commissioni parlamentari d'inchiesta integralmente consultabili. Integralmente consultabili. Viceversa, in modo diametralmente opposto, la commissione che ha operato, commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da un deputato che ha operato sul caso Sindona e le responsabilità politiche e amministrative adesso eventualmente connesse, questo era il titolo della commissione parlamentare d'inchiesta, su queste carte, che sono ben 132 buste, diciamo, che coprono un periodo che va dal 1980 al 1982, cioè gli anni in cui ha operato questa commissione. Queste carte sono dichiarate come fondo segreto, dichiarate come fondo segreto dalla commissione stessa, dalla commissione stessa che, e dal suo presidente. Ora, questa è una situazione, diciamo, abbastanza singolare, cioè non si capisce perché la documentazione che è frutto dei lavori di una commissione parlamentare d'inchiesta, che dovrebbe poi riferire in Parlamento anche sui suoi risultati, non si capisce perché debbano essere integralmente segreti, ancora integralmente segreti. Io posso comprendere che vi siano all'interno della documentazione prodotta dalle diverse commissioni parlamentari d'inchiesta alcuni atti tuttora segreti, atti relativi ad audizioni, per esempio, di appartenenti a servizi di informazione, che hanno chiesto in quel momento di diciamo, riferire ai componenti della commissione, diciamo, in via riservata, senza pubblicazione degli atti. Così come posso capire che diversi documenti non siano ancora consultabili o non fossero ancora consultabili al momento della conclusione dei lavori della rispettiva commissione parlamentare, perché erano documenti anche legati a indagini della magistratura, indagini dell'autorità giudiziaria e quindi documenti ancora in quel periodo sottoposti a segreto istruttorio. Non capisco invece il motivo per cui si debba porre come segreto l'intera produzione documentaria della commissione parlamentare d'inchiesta, a parte le relazioni di maggioranza e di minoranza. Allora, qui si tratta del cosiddetto segreto funzionale. Questo tipo di segreto che è stato, diciamo, che viene posto dal Presidente e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla documentazione prodotta è un segreto che viene definito segreto funzionale. Non esiste una norma di diritto positivo che parli di questo segreto funzionale, perché che io sappia, esiste il segreto d'ufficio, che è anche, diciamo, protetto da delle norme incriminatrici del codice penale e poi da sanzioni amministrative. Il segreto d'ufficio, diciamo, è il versus, è l'altra faccia della medaglia del diritto di accesso ai documenti, no? Che i cittadini possono inoltrare alle pubbliche amministrazioni. E poi esistono, oltre al segreto d'ufficio, che diciamo, si articola, questo segreto d'ufficio si articola in tanti aspetti, si articola nel segreto istruttorio, segreto investigativo, nel segreto epistolare. Nel segreto sanitario, ma sono tutti dei segreti in qualche modo provvisori, cioè che dovrebbero durare finché dura l'attività amministrativa che diciamo si connette a questi atti, a queste notizie. Esiste poi il segreto di Stato che è protetto da norme, diciamo, molto più incisive, e nel segreto di Stato, io, non io, insomma, la dottrina fa confluire sia le notizie segrete che le notizie di vietata divulgazione, cosiddette riservate. Entrambe nel codice penale e nel codice di procedura penale sono protette dalle norme incriminatrici del segreto di Stato. Però non ci sono delle norme relative a questo cosiddetto segreto funzionale. Questo segreto funzionale si ritiene che sia una sorta di super segreto d'ufficio. Purtroppo un super segreto d'ufficio in qualche modo collegabile all'attività di organi di rilevanza costituzionale, come sono le Camere, i due rami del Parlamento, il Presidente della Repubblica. E organi costituzionali sono anche il governo, però allora a questo punto bisogna intenderci se questo segreto funzionale copre le notizie, tutte le notizie prodotte dal governo. Ovviamente non è così. Comunque, il problema è che, diciamo, infaustamente questa tesi del segreto funzionale, che era stata opposta nel 76 da un'allora commissione antimafia al Tribunale di Torino, che aveva bisogno di alcuni atti prodotti da questa commissione. Questo segreto funzionale vi fu un conflitto di attribuzioni e quindi la cosa venne rimandata alla Corte Costituzionale, la quale si espresse in qualche modo all'epoca accogliendo parzialmente questa tesi del segreto funzionale. Però è molto criticato in dottrina, cioè molti ritengono che sia un segreto in qualche modo privo di fondamento. E soprattutto il problema è che anche ammettendo l'esistenza di questo segreto funzionale, che diciamo che chiamiamolo come un super segreto d'ufficio, ammettendo pure questa esistenza, al momento della conclusione dei lavori delle commissioni parlamentari d'inchiesta, i rispettivi presidenti si sarebbero dovuti preoccupare di un termine temporale oltre il quale far cessare questo segreto funzionale. E purtroppo così non è stato per diverse commissioni parlamentari d'inchiesta. Anzi, per la maggior parte delle commissioni parlamentari d'inchiesta non è stato. Quindi, anche attualmente, se si vogliono consultare delle carte che in origine furono dichiarate segrete dalla rispettiva commissione parlamentare d'inchiesta, bisogna fare domanda all'ufficio di presidenza della Camera o del Senato, dipende da dove è conservato l'archivio. E quindi su, diciamo, iniziativa di parte si può procedere a una declassificazione, il termine non è corretto, ma una desecretazione di questi documenti. Badate bene, questo segreto funzionale vale anche per l'autorità giudiziaria, questo è il paradosso. Quindi si avvicina in qualche modo ai profili del segreto di Stato, questo segreto funzionale, per quanto non sia previsto dalla normativa, dalle norme di diritto positivo. Questo discorso l'ho fatto appunto in riferimento alla commissione d'inchiesta sul caso Sindona. una scelta diametralmente opposta, cioè nel senso di una estrema pubblicità dei documenti, è stata infatti invece da una successiva commissione che ha indagato sulla loggia massonica P2, la commissione presieduta da Tina Anselmi. In questo caso vi è stata la volontà di una forte pubblicità dei lavori della commissione e quindi anche in questo caso, oltre alla produzione, alla pubblicazione delle audizioni, delle relazioni, dei resoconti, sono stati pubblicati anche in questo caso, come per la commissione Moro, sul caso Moro, numerosissimi documenti. Ecco perché vi sono, diciamo, i volumi pubblicati relativi ai lavori di questa commissione, 1981-1984, sono attualmente, mi sembra, 118. Perché si tratta anche qua di riproduzioni di documenti originali o di documenti in copia utilizzati dalla commissione parlamentare. Ora, questo come quadro complessivo delle fonti forse più facilmente fruibili da parte vostra e da parte in generale degli studiosi, e il luogo dove, diciamo, un luogo perlomeno unico, unitario, dove notizie molto approfondite su questi anni e su questi episodi sono effettivamente, diciamo, rintracciabili, consultabili. Però innumerevoli altre possono essere le presenze di fondi archivistici contenenti documentazione interessante ai nostri scopi e conservata in archivi storici. Dico archivi storici perché non si tratta solo di documentazione conservata all'archivio centrale dello Stato, ma anche di documentazione conservata presso l'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, e si tratterebbe anche, forse però, di documentazione conservata presso l'ufficio storico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica, forse, perché qui le ricerche sono ancora da fare. E inoltre, ma non, da non dimenticare, cioè last but not least, diversi archivi personali di personalità politiche che ebbero ruoli molto rilevanti nella nostra storia repubblicana. Diversi archivi personali conservati o all'archivio centrale dello Stato o presso altre istituzioni. Allora andiamo molto velocemente perché rispetto al tempo che mi avete dato mi pare che ho ancora un quarto d'ora circa. Sì, un quarto d'ora, 20 minuti. Allora cominciamo con gli archivi diciamo, che possono contenere documentazione interessante ai nostri fini, conservati all'archivio centrale dello Stato. Sui documenti del periodo fascista non mi diffondo perché diciamo, non rientrano pienamente nel nostro tema e ne ho già accennato prima. Anche se non bisogna dimenticare che che vi è documentazione risalente a quel periodo che in qualche modo imbarazzante per il nostro paese, che fino a poco fa non è stata di facile fruibilità, e mi riferisco alle fonti per la storia delle colonie, conservate in buona parte nei fondi del Ministero dell'Africa Italiana. I fondi del Ministero dell'Africa Italiana conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato erano e sono consultabili, ma quelli conservati presso l'Archivio Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri solo da pochi anni sono efficacemente consultabili, effettivamente consultabili. Eppure si tratta di fondi archivistici risalenti agli anni 20, 30 e anche prima. Pensate alla guerra di Libia che è del 1911-12. Arrivando a un periodo più recente, io direi che i fondi archivistici più interessanti, quindi a parte quelli prodotti dal regime fascista e dalla Repubblica Sociale Italiana, i fondi più interessanti che si possono naturalmente consultare all'Archivio Centrale dello Stato sono un fondo della divisione servizi informativi e speciali, SIS, per il periodo 1945-49, si tratta di 325 cartelle, dotate di un inventario redatto nel 2004. Quindi, da quello che ho capito, è un fondo che è consultabile dal 2004, anche se il versamento è avvenuto precedentemente. Allora, io non voglio, e poi non ho neanche le competenze per, c'è qui Giannulli che potrà farlo molto meglio di me, per delineare qual è stato lo sviluppo dei servizi di informazione civili e militari dal regime fascista in poi. Però vi basta sapere che questa divisione SIS opera appunto tra il 45 e il 48. Ma le carte arrivano anche, diciamo, ci sono, arrivano fino al 49 in sostanza, e opera all'interno della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza dopo lo scioglimento della Polizia Politica, no? Avvenuto con la caduta del regime e della Repubblica Sociale Italiana. In qualche modo queste carte della divisione servizi informativi speciali si riferiscono al periodo in cui operavano i governi di unità nazionale, cioè il periodo in cui il Partito Comunista e il Partito Socialista siedevano nei gabinetti ministeriali. Voi sapete che i partiti di sinistra vengono, diciamo, espulsi, in qualche modo allontanati dal governo nella primavera, no, nel gennaio forse, gennaio 1948, primavera del 48. Quindi c'è in qualche modo una coincidenza tra le carte di questo servizio informativo del Ministero dell'Interno e il periodo dei governi di unità nazionale. Non a caso i funzionari attivi all'interno del SIS erano sostanzialmente funzionari non o solo parzialmente compromessi con diciamo, gli episodi con la gestione dei precedenti servizi di informazione del periodo fascista, ma anche questo forse non è del tutto del tutto esatto, però diciamo che gli elementi compromessi, più compromessi, non erano presenti in questo servizio. Questo servizio informativi, divisione servizi informativi speciali che dipendeva dalla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, non a caso, diciamo, viene sciolto in coincidenza con il mutamento del quadro politico italiano internazionale. L'erede di questo servizio è l'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno. Nel 1948, quindi, avviene un mutamento organizzativo all'interno della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, un mutamento degli assetti organizzativi, per cui viene sciolta la Direzione Generale, la Direzione Affari Generali e Riservati, Direzione Affari Generali e Riservati viene sciolta. Direzione da cui dipendeva questa SIS, e vengono, diciamo, create due distinte strutture, la Direzione Affari Generali e la Divisione Affari Riservati. Questa Divisione Affari Riservati o Ufficio Affari Riservati è l'erede del SIS, è l'erede del SIS però in un mutato contesto politico e diciamo, geopolitico, cioè coincide con l'inizio e l'avvio, diciamo, pieno e indubitabile della guerra fredda. La cosa interessante però è che all'archivio centrale dello Stato c'è stato un versamento più recente anche di carte di questa divisione affari riservati o ufficio affari riservati. Questo versamento è stato operato dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e copre un periodo che che gestiva, che possedeva queste carte, copre un periodo che va dal 1948 al 1960. Quindi non tutta la divisione affari riservati, ma solo il periodo 48-60. E inoltre, allora questo è un versamento recente, è stato fatto un elenco di versamento proprio dal personale di pubblica sicurezza, che è stato poi revisionato dagli archivisti di Stato, dell'Archivio Centrale dello Stato. Anzi, ci sono in realtà quattro distinti elenchi di versamento. Badate bene che questo fondo non è descritto nella guida di sala che è pubblicata sul web. Sul web, se andate al sito dell'Archivio Centrale dello Stato, voi vedete visibile, consultabile la guida di sala. Che cos'è la guida di sala? È una guida ai fondi archivistici conservati all'Archivio Centrale dello Stato. Non è un inventario, ma è la guida che vi introduce agli inventari che sono presenti in sala di studio. Gli inventari sono innumerevoli, sono centinaia. Questa è una guida ai fondi e agli inventari presenti in sala di studio. Però purtroppo nella guida pubblicata sul web non trovate questo versamento, perché la guida, quella pubblicata sul web, è aggiornata al 2004. Mentre l'elenco di versamento è del 2007, questo fondo è consultabile quindi solo da un anno e mezzo. Io ho provato a guardarlo un po' brevemente e devo dire che ho notato anche così, a uno sguardo non eccessivamente approfondito e guardando alcune cartelle, che in realtà non è completo questo fondo, anche per il periodo 48-60. Ci sono notevoli lacune, probabile che si tratti di lacune dovute al passaggio in una parte della documentazione alla gestione riservata di alcuni dirigenti dell'ufficio. Si ricordino le carte della gestione riservata Russo Manno o l'archivio riservato di Federico Umberto D'Amato, dirigenti dell'ufficio affari riservati. Per cui è possibile che questi fascicoli mancanti siano dovuti a questo illegittimo trasferimento di fascicoli particolarmente delicati e compromettenti, forse anche in questi archivi separati all'interno dell'ufficio affari riservati. Per esempio, ho notato che, intanto c'è il problema che non c'è un quadro complessivo delle categorie, cioè la documentazione è articolata in un quadro di classificazione. Questo quadro di classificazione si presenta, è un quadro di classificazione biennale o triennale. In sostanza ci sono delle serie biennali e triennali, e ognuno di alla scadenza di una di alla scansione di ognuna di queste serie corrisponde più o meno sempre lo stesso quadro di classificazione. Quindi ci sono delle voci molto significative, per esempio O, stranieri in Italia, il fascicolo Francia, legione straniera. Sull'elenco di versamenti hanno notato che la corrispondenza è stata passata al fascicolo K1 del 54, cioè nella serie 51-53 voi trovate la notazione che il fascicolo K1 Francia Legione Straniera è stata passata alla categoria K1 del 54. Ora però, se andate a vedere poi l'elenco di versamento relativo alle carte del 54-56, voi questa categoria K1 Francia, col fascicolo Francia Legione Straniera non la trovate, quindi manca. Vi è un altro fascicolo, attività francesi in Italia, e hanno notato passati al fascicolo servizi informativi francesi in Italia R6 del 51, ma anche qui R6 del 51 non c'è questo fascicolo. Allora, qui poi c'è un problema, che spesso i fascicoli inerenti a affari in qualche modo complementari o molto simili hanno categorie e classificazioni diverse. Sembra un sistema che è fatto apposta in qualche modo per gettare fumo negli occhi per i non addetti ai lavori, cioè per il personale che non gestiva direttamente questa documentazione. Non si capisce altrimenti perché la categoria K, che dovrebbe corrispondere a forze armate, spionaggio e controspionaggio, non è l'unica categoria che si riferisce a queste attività, ma vi è un'altra categoria R che corrisponde a rapporti con i servizi stranieri, e vi è una categoria O, stranieri in Italia, che comprende documentazione anche in parte relativa a queste attività. Quindi vi è in qualche modo vi sono sovrapposizioni tra le diverse categorie, O, K, R. Vi sono poi questi rinvii di fascicoli da una serie biennale o triennale a quella successiva, poi quando si va a vedere la rispettiva posizione all'interno dell'elenco di versamento, il fascicolo non c'è. O peggio ancora, in alcuni casi il fascicolo compare sì nell'elenco di versamento, ma all'interno della busta è rimasta solo la carpetta, cioè il relativo contenitore, ma non c'è la documentazione all'interno, e sulla carpetta è indicato, per esempio nel caso dei documenti della categoria O11-1954, fascicolo statunitense in Italia, è indicato atti distrutti in data 9-11-1959. Questa questione della distruzione dei documenti ci introduce un altro tema interessante, ossia quello degli scarti, dell'eliminazione della documentazione. Ora, se noi andiamo semplicemente a vedere la legge del 63 sugli archivi di Stato e l'attuale codice dei beni culturali del 2004, che sono le norme, diciamo, principe relative alla consultazione dei documenti, e però anche al passaggio dei documenti dell'amministrazione attiva agli archivi storici, le norme contenute in questi provvedimenti legislativi ci dicono in sostanza che presso le amministrazioni statali, prima del versamento nei rispettivi archivi di Stato, dovrebbero essere attive, dovrebbero funzionare delle commissioni di sorveglianza. Queste commissioni di sorveglianza, composte da un archivista di Stato e da due funzionari dell'ufficio che propone lo scarto e da un componente del Ministero dell'Interno, in sostanza una delle attività più importanti che fanno, e a volte spesso l'unica attività rilevante che fanno, è quella di individuare quali serie documentarie e quali fascicoli siano da scartare, siano da eliminare prima del versamento nei rispettivi archivi di Stato. Però anche dalla diciamo, visione di questi fascicoli dell'Ufficio Affari Riservati, conservati attualmente all'Archivio Centrale dello Stato, vediamo come dispiegarsi proprio limpidamente davanti ai nostri occhi come questa procedura prevista dalle norme in realtà molto spesso non sia stata seguita. Ossia, molto spesso in particolare, quasi sempre per gli uffici che trattavano affari riservati, gli scarti, l'eliminazione dei documenti sono avvenuti al di fuori dell'attività delle commissioni di sorveglianza. Cioè, le commissioni di sorveglianza non hanno mai in qualche modo potuto intervenire sul versamento, sul controllo ai fini dello scarto della documentazione prodotta da questi cosiddetti uffici riservati. E questo vale non solo per le carte prodotte dai servizi informativi militari dipendenti dal Ministero della Difesa, ma vale anche per le carte prodotte dagli uffici che svolgevano attività di intelligence all'interno del Ministero dell'Interno, che pure era, abbiamo visto, il ministero con cui l'amministrazione archivistica era più, diciamo, in proficuo rapporto, anche perché fino al 75 facevano parte della stessa amministrazione. Quindi questa è una questione importante. La questione importante è che, appunto, il processo di eliminazione dei documenti, lo scarto dei documenti, è avvenuto al di fuori delle norme generali sulla conservazione degli archivi contenute nelle leggi che abbiamo visto. In alcuni casi queste procedure di scarto, per quanto non previste dalle norme, appunto, sono state svolte da commissioni interne ai rispettivi ministeri. Per esempio, il primo rapporto sui servizi di informazione e sicurezza stilato dal COPACO nel 1995, cioè dal Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Informazione. Questo primo rapporto, pubblicato nel 1995, si è soffermato sull'esistenza di circolari riservate dei Servizi di Informazione e Sicurezza, del SISMI e del SISDE, riguardanti le procedure di eliminazione dei documenti che venivano svolte da uffici interni. Questi uffici interni poi decidevano, a norma di queste circolari interne, che però, ripeto, erano circolari riservate, quindi le ha potute vedere il COPACO, ma non le possono vedere, non le hanno potute vedere, non le possono tuttora vedere i cittadini, gli studiosi. Parrebbe quindi, da questa prima relazione del 95, parrebbe che all'interno dei servizi, quindi del SISDE, del SISME, del SISMI operassero delle commissioni interne che decidevano l'eliminazione dei documenti oppure l'invio di una parte della documentazione a uffici storici interni. In realtà, dunque, la gestione di questa documentazione è stata tutta demandata agli uffici produttori delle carte. E questo capite bene che ha effetti negativi, piuttosto negativi, sulla conservazione delle carte stesse nel momento in cui queste carte potrebbero documentare un'attività illecita o anche un'attività diciamo, che denota reati. Che denota fatti di reato e delitti compiuti da diciamo, componenti diciamo, funzionari di questi stessi uffici. Per quanto questi reati, questi delitti potrebbero essere risalenti a 25-30 anni prima del momento attuale, è chiaro che questa documentazione in linea di massima o è stata distrutta oppure si è, diciamo, è stata conservata con cautele e con attenzioni tali da non farvi accedere non solo gli studiosi ma nemmeno l'autorità giudiziaria. È noto, ad esempio, questo si rileva da un libretto sempre pubblicato da Giannulli, L'Armadio della Repubblica, è noto che nel 96 fu rinvenuto in uno dei depositi, nel principale deposito, diciamo, della Divisione Centrale di Polizia Prevenzione, diciamo, alla periferia di Roma, un importante archivio che conservava anche documentazione e corpi di reato che sarebbero stati molto utili per le indagini della magistratura compiute sulla strage di Piazza Fontana e sul primo processo di Piazza Fontana svoltosi a Catanzaro. Quindi si tratta di documenti che in qualche modo all'epoca furono non trasmessi all'autorità giudiziaria, non furono trasmessi all'autorità giudiziaria e che solo nel corso diciamo, di una seconda di indagini svoltesi molto più tardi, in tempi molto più vicini a noi, cioè le indagini condotte dal giudice Salvini a partire dalla fine degli anni Ottanta, sono venute alla luce, sono venute alla luce nel 96 in sostanza. Quindi in linea di massima c'è questo problema, la gestione degli archivi, una gestione dei documenti direttamente condotta dagli uffici interessati e senza un controllo, a questo punto un controllo in realtà non solo da parte delle commissioni di sorveglianza, che sono organi amministrativi misti, ma un controllo, il problema è che non c'è stato in passato un controllo nemmeno da parte del Comitato Parlamentare, sì, Comitato Parlamentare per il controllo sui servizi di informazione e sicurezza, il COPACO. Infatti, una, diciamo, delle preoccupazioni del legislatore nel momento in cui sono svolti i lavori che hanno portato alla promulgazione dell'attuale legge sul sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, la legge 124 del 2007, una delle preoccupazioni del legislatore in questa ultima vigente legge, 124 del 2007, è stata quella in qualche modo di fornire il COPACO, che attualmente l'abbreviazione è COPASIR, ma è la stessa cosa, di fornire questo organo di strumenti in qualche modo adeguati per un controllo a posteriori sull'attività dei servizi, sull'attività dei servizi di informazione e sicurezza. E perché solo un controllo a posteriori, un controllo poi direttamente sugli archivi e sulle carte prodotte da questi servizi, che devono essere conservati, non devono essere distrutti, può permettere la verifica di condotte di questi servizi che rientrino nei limiti posti dalla legge ai servizi stessi. Limiti che si riferiscono all'uso, allo strumento del segreto di Stato, dell'opposizione o apposizione del segreto di Stato, e limiti che si riferiscono alla possibilità per i componenti di questi servizi di compiere reati. Attualmente, io direi fortunatamente anche, la legge sul segreto di Stato in vigore prevede la possibilità per i componenti dei servizi di informazione e sicurezza di compiere dei reati. Però queste attività qualificabili come reato devono essere autorizzate dall'autorità politica, dal governo. E l'autorizzazione espressa e la documentazione relativa a questa autorizzazione deve essere conservata, perché la conservazione di questa documentazione permetterà, se sarà effettivamente rispettata la legge in vigore, permetterà in un futuro vicino e non lontano, dovrebbe permettere in un futuro vicino e non lontano, al Comitato Parlamentare di Controllo, attualmente COPASIR, verificare se effettivamente i reati compiuti dai componenti dei servizi di informazione siano quelli enucleati dalla legge stessa e non dei reati ulteriori, non previsti come speciale causa di giustificazione della legge stessa. Purtroppo i recenti casi di cronaca giudiziaria, che forse avete seguito in parte, non paiono dire che ci si stia muovendo in questa direzione. Mi riferisco in particolare, forse all'unica vicenda, che ha avuto un riscontro sui mezzi di informazione, ha avuto un riscontro in sede processuale, ossia il caso del sequestro del terrorista Abu Omar. Su una parte delle carte prodotte dal SISMI, prodotte in realtà precedentemente sequestrate dall'autorità giudiziaria nel 2006 e poi fatte pervenire all'autorità giudiziaria dal SISMI stesso con degli omissis, su una parte di queste carte è stato posto, appunto una forma di segreto di Stato, ma soprattutto è stato posto, il segreto di Stato da parte, del direttore generale, mi pare generale, sì, SISMI, Niccolò Pollari, precedentemente ascoltato come testimone e poi invece, sottoposto ad avviso di garanzie, quindi ascoltato come indagato. Parrebbe che anche in questo caso l'uso del segreto di Stato da parte dell'imputato, no, per meglio dire dell'indagato Niccolò Pollari, sì, indagato e poi imputato, e la conferma del segreto di Stato da parte del governo, sia del governo di centrosinistra che del successivo governo di centrodestra, sia stata una opposizione del segreto di Stato non orientata a, diciamo, coprire quei fatti individuati dalla legge come meritevoli di essere coperti dal segreto di Stato, ma un uso del segreto di Stato ancora una volta, come in passato, utilizzato per coprire delle condotte illecite, delle condotte di reato e reati in realtà che si qualificano come non coperti dalla speciale causa di giustificazione prevista dall'attuale legge 124 del 2007. In sostanza, una collaborazione che parrebbe essersi verificata, parrebbe perché in realtà i documenti sequestrati dall'autorità giudiziaria dicevano questo, un'attività di collaborazione, diciamo, messa in atto dai nostri servizi di informazione con la CIA nella pratica delle extraordinary redemptions praticata dal governo Bush a partire dal 2001, cioè nella pratica dei sequestri di persona diciamo, praticati in Europa anche con il fine di trasferire i sequestrati in paesi dove fosse possibile, diciamo, applicare la tortura a fini di intelligence. Non a fini quindi processuali, ma a fini informativi.